Antonello, ben sentito, Salvatore da questa parte. Di Claudio, un'informazione. Lo conosci Pizzalis, quello giù di Cagliari? L'ho sentito due settimane fa per mandargli giù tutta la mia documentazione e mi ha fatto non me la mandi però prima del 20 perché stiamo qui organizzando adesso tutti quanti gli esami eccetera eccetera, mi mandi un'email così le rispondo e le mando i documenti giusti, perché ho scoperto che i documenti per la richiesta della patente li ho scaricati da un posto dove evidentemente erano sbagliate alcune note, perché parlava del titolo di studio non autenticato, e quindi lui mi ha detto mi mandi mail e così le faccio un repli e le mando i documenti corretti. Io ne ho già mandato due e ancora non mi hanno risposto. È possibile che siano intasatissimi di lavoro? Non mi risulta, gli esami sono il 28, quindi Pizzalis è una delle poche persone con la quale ci si può mettere in contatto, sicuramente. Magari non ho, è impegnato in altre cose, non è andato a vedere le mail, ma su questo non so risponderti. Io non ho il numero di telefono, ce l'ha qualche collega governatore, il suo personale, no? Non so cosa dirti, Salvatore. Ma perché tu non ci vai il 28? Devi mandare i documenti per la prossima volta? No, devo mandare i documenti perché posso fare la richiesta con esenzione di esame. Con esenzione di esame, quindi tu non arrivi all'esame perché sei perito elettrotecnico? Sì, perito industriale. Il titolo è perito industriale capotecnico in elettronica, così è esattamente la dicitura. E questo non è per lui, perché l'anno prevede capovale di seconda classe, come ero io, l'aereo telegrafista, oppure perito elettronico, quindi perito elettrotecnico elettronico con diploma dell'industriale. Quindi se tu c'hai quel titolo si è esonerato totalmente sia dallo scritto che dall'orale. E lui cosa ti ha detto? Sì, infatti lui me l'ha confermato, perché io gli avevo telefonato, io ce l'ho il suo numero di telefono dell'ufficio, gli avevo telefonato e mi ha detto guardi però mi faccio la cortesia perché siamo un po' ingolfati adesso con gli esami eccetera eccetera, ci sentiamo più avanti, e comunque poi avevo scoperto che nell'elenco dei documenti da allegare, nel foglio che ho io c'era scritto copia del titolo di studio. In realtà lui mi ha detto no, in quello che abbiamo noi c'è scritto copia autenticata, quindi per evitare incomprensioni e per evitare di farle perdere tempo le invio nella mail i fogli di richiesta corretti. E niente, stavo aspettando, ma quasi quasi domani se trovo un attimo di tempo gli do un colpo di telefono, perché lui mi ha spiegato in realtà tutte quante le richieste che provengono via mail vengono visionate dall'ingegnere, mi ha detto anche il nome, adesso non ricordo, e solo lui visiona queste richieste quando ci sono quando c'è l'esenzione degli esami, poi eventualmente per l'invio della modulistica passa le carte agli altri collaboratori, tra cui desumo questo stesso Pizzalis. Comunque niente, niente di particolare, volevo chiedertelo perché visto che tu conosci tutti quanti i movimenti forse potevi confermarmi se erano effettivamente ingolfati oppure no. Do un colpo di telefono e non succede niente. Tu vuoi una cosa tra te e me? Il dirigente è il dottor Giulio Riccioni, che è il dirigente capo del Ministero delle Telecomunicazioni per quanto riguarda il nostro settore. Ok. Lucia, se tu ti segni il numero di telefono, parli o la dottoressa Giorgio o con la responsabile dell'istruttoria di queste pratiche che è la signora Secchi. Se ti prendi carta e penna, e poi ti dico cosa fare, farò raccomandare un ricevuto al ritorno, molto semplice, video che tu c'è il PC, fai il video, il sottoscritto, eccetera, eccetera, chiedo, risolva la cessione d'esame del giorno 28/10/2011 per mettere la motivazione, allego, allego. Fotocopia autenticata del diploma e i documenti che sono necessari sono la fotografia autenticata, quindi la fotocopia del diploma autenticato, fotocopia del documento autenticato, fotocopia del codice fiscale. Non mi fai altro, metti dentro la busta e spedisci, punto e basta. Poi qualsiasi cosa io ti do il numero di telefono, il codice giallo, la signora Secchi, che sono praticamente tutti e due responsabili, una del procedimento e una dell'istruttoria, anche loro vanno tutto al dottor Riccioni oppure all'ingegnere De Biglio, che esamina la pratica in giro di pochi giorni, loro ti rispondono e ti mandano la ricetta provvisoria con un relativo provvisorio che dura, mi pare, 30 giorni, loro fanno le visure. Loro non so, in Italia c'è qualche altro nativo che loro danno dato, infatti il mio era prima, anziché di FB era BCR, quindi poi mi hanno cambiato di FB perché è risultato che in Italia c'era un altro BCR e quindi loro fanno i loro controlli, controllano tutto, dopodiché fanno un definitivo, comunque prendi carta e penna, segnati questo numero e lascia più gli abituali, sì che è uno che passa la traccia alle scrivanie. Ma per bravo. Ok, c'è la penna o ho già scritto i cognomi? Allora, aspetta, devo cambiare occhiali, porca la parità, non ho il numero, aspetta che ce l'ho scritto nella cartellina proprio della sezione. Fai con comodo. Scusate tutti quanti, scusate questo. No, non c'è nessuno, quindi c'è un bello, c'è come so, la responsabilizzazione del signor Giorgio, la responsabilizzazione del tutto della signora Secchi. Quindi una dottoressa va per invece signora. Allora, il numero è 070 20 28 62 38, ripetimelo perché è il numero del fax nel caso di rimandare qualche fax. Ok, 070 20 28 62 38. Perfetto, il fax invece è 070 28 69 83. Ok, quindi come procedimento, ripeto, la dottoressa Giacomo che è responsabile, dell'istruttoria che sono, è proprio quella che arriva tutta l'aula posta e poi apre l'istruttoria dove poi ti manda tutta la documentazione. Io questa è proprio la comunicazione, l'ho mandato lei nel 2005 e vedi, cambio il nome attivo, si inserisce l'articolo 3 di N21/7/05. Proprio mi ha mandata il dirigente dottor Giulio Riccioni, quindi l'esonero, vedi, si è regolato il credito attuale normativa contenuto nella legge regionale prima volta del 2003 affinché venga comprato per parte dell'esercito, eccetera, eccetera. L'esonero va, non ci vedo un cacchio, avvocato la telegrafia, però tu invece la telegrafia non devi dare, comunque è la stessa cosa che hanno mandato a me. Perciò ti metti in mano alla dottoressa Giacomo, alla signora Secchi, le telefono, le dici, se va bene solo quello che ti ho detto io, quindi una Sì. Perché 20 giorni dopo non mi era ancora arrivato niente, e un mese fatto niente. Immagino, mi è successa la stessa cosa quando l'azienda voleva fare un cambio praticamente, ma si eccetera, quindi volevo non avevo fatto per la domanda il diploma e ho dovuto fare il primo fare perché non mi ricordavo né dove l'hanno messo, né nulla, e quindi tramite la scuola sono riuscito a lavorare, ma allora lì c'era Milello, c'era Carlo, quello di Chiaramonti, che era l'allenatore, e quindi si è occupato lui e perciò insomma mi aveva fatto avere quello che mi serviva, altrimenti io non mi toglievo piedi. Adesso infatti mi ha fatto un paio di fotocopie, ci vuole nella cartella proprio dove tutta sezione lavorativa, però sono abbastanza ordinato, quindi se mi serve qualcosa vado a trovarla. Ok, mi portano un parentale, dato una scusa, dolorosamente dovevo dare queste info a Salvatore. Io quando sento queste cose bisogna essere molto precisi dando queste indicazioni, perché se sbagli poi rischi di fare anche brutte figure. A te Antonello. Buonasera a tutti, buonasera Salvatore, ciao Claudio e tutti quanti i componenti del canale 10, buonasera a tutti quanti. Ciao Giuseppe, non credo non sia nessuno, c'era Antonello Di Ossima, io sto dando delle informazioni a Salvatore e quindi non so, è andato via, si è spostato, non so, comunque Salvatore. Non ho accennato, ma non mi ricordavo, perciò a breve sarà il mio collega, quindi possiamo fare le prove in 10, 20, 40, 80, non c'è problema. Va bene, poi se devi prendere qualche VU a pochi spiccioli fanno sapere che c'è qualcosa subito pronto dentro la scatola, non c'è problema. Allora ti riprendi per lei Giuseppe. Ciao carissimo Giuseppe, ben sentito. Sì, come al solito gentilissimo, però volevo intanto, ma credo che mi abbia capito abbondantemente, volevo essere intanto ecco, certo e regolare in tutto e per tutto nell'utilizzo di questo apparato. E poi sicuramente, siccome sono a digiuno completamente, ti avrei chiesto un po' della tua appunto disponibilità per darmi qualche indicazione, qualche dritta proprio per lavorare sulle altre decametriche e insomma e vedere un pochettino come attrezzarmi adeguatamente con le giuste antenne, ecco, senza uscirne fuori dai giusti paletti economici che ovviamente mi sono anche un po' premesso. Ma comunque questa è una cosa che sicuramente vedremo più avanti. Ma già da adesso comunque ti ringrazio per la disponibilità che mi hai dato sia per questo di apparato e poi per le altre note varie, tra cui l'ultima di poco fa. E tra l'altro ho saputo domenica, peccato in ritardo, che vi siete trovati un po' tutti quanti. E purtroppo l'ho saputo domenica parlando, se no mi sarei avvicinato volentieri per conoscervi in verticale, perché niente, una cosa che mi piacerebbe comunque vedere e conoscervi di persona, ma ci sarà penso sicuramente qualche altra occasione, immagino. Niente, Giuseppe, ti rilancio, buona serata. Adio. Sì, abbonati Massandro, Giuseppe, quindi poi Salvatore. Va bene, ci saranno altre giornate, Salvatore, non c'è problema, sai che noi problemi non ce ne dobbiamo mettere, quando vogliamo organizzare ci troviamo al solito posto per dare segni, dopo c'è Lidl, lì c'è un bar bello e ci troviamo tutti quanti là, non mancherà la giornata di incontrarci e fare quattro chiacchiere verticali, perché fa anche piacere conoscerci e tutti quanti. Domenica noi eravamo tutti quanti là, ci siamo divertiti e Claudio troppo confermare. Vai Claudio. Sì, questo è, ma infatti non manca l'occasione, sarà attualmente, Sandro. Ok, saluto Giuseppe, ciao Giuseppe. Niente Claudio, siccome ho verrisciato con i tasti dell'85, li ho fatti bianchi e sono belli tutti quanti, niente, ti volevo chiedere se la regolazione va bene. Sì, per me sì, un pelino lo dovresti abbassare, non mi ricordo se era 5 a quanto era, un pelino un po' più sicuramente la forza del compressore, ma un pelino, perché tende ad essere troppo alta, leggermente strappa. Ok, così l'ho messo a 6, va bene? No, non va a 5 quello, a 5 deve metterlo. A 5, ok. A 5 il compressore, adesso è a manetta, a 10, adesso è a 5. No, era 1 a 7 e 1 a 5, Sandro. 1 a 7 è quello, ma guarda il microfono, non mi ricordo, il micro che mi sembra a 7 e il compressore a 5, prova. Allora, invertiamo, perché adesso il compressore è a 7, adesso è a 5, il volume del mic adesso è a 5, 6, 7. Ecco, così è il volume del mic a 7 e il compressore a 5, però il pattino del compressore è inserito, va bene, l'alto ce l'hai in posizione alta o in posizione bassa, mi sembra in posizione alta. Compressione inserito, infatti in questo tasto è disinserito, adesso è inserito, poi c'è l'altro tastino del tone, che adesso è normale, adesso l'ho passato, vedo? Adesso il tono è a 7, Sì, perché io lo sento, quindi evidentemente era il Mickey Gain, perché lo sentivo troppo quasi distorta la voce, almeno dalla mia parte arrivava così. Ora è sicuramente meglio, ora è sicuramente meglio. Non so, Claudio, se è l'effetto proprio del mic nei miei confronti che crea questa situazione, o se è un problema di ricezione mio, perché mi sono posto anche questo problema, visto che gli altri lo sentivano tutti quanti perfettamente. Capita a me che magari mentre stiamo rispolverando e facendo tocchiamo il Mickey Game e quindi si sposta. Giuseppe, tu lo senti bene a Sandro? Prova a vedere Sandro se ti sento bene. Ok, dai. Ok, Giuseppe, va benissimo, ok. Claudio, poi mi dirai se senz'altro avrai fatto il tutto, eh? Stamattina l'ho rotto, appena aperto la porta, ero il primo, ho spedito subito immediatamente il pacco, Sandro, ci mancherebbe altro. Ok, va bene, conservo la ricevuta, sappi che, ok, tramite online lo puoi seguire. Ci metto perché cosa ci sia a fare, mica avete fatto me il pacco, avete fatto a te, quindi arrangiati. Allora vuol dire che quando arriverà, perché arriva a nome mio, io dirò, che quando tu mi chiederai, dirò, non è arrivato niente. Sure. la barra e mettere come codice IP direttamente attaccato. Io l'ho scoperto come mi hanno spedito il mio. Vediamo un attimino se è partito, vabbè, dovrebbe partire, dovrebbe essere già partito. Va bene, riprendi clappa, girare e stampare un attimino da parte mia. Ok, positivo, poi lo guardo anch'io. Ciao Domenico, buonasera, mi trovo con te, ci sono io, Salvatore e Giuseppe Giorgino, avanti. Ma a Natale ti prendi quello più grande? No, vediamo. allora vediamo, sono lì per lì indeciso, la vita vediamo come esce, ok. E cappa. Ok, Domenico, vieni pure avanti. Non c'era, ma c'era anche Antonello, Giuseppe? Oh, non l'ho sentito io Antonello, sabato. Ok, Fabrizio, dimmi. Allora, ma con te avevamo parlato un po' di tempo fa dell'acquisizione dei dati su file secondo un tracciato record, con te ne avevamo parlato? Non ricordo. Allora forse con, se non era con te, forse con chi era? Boh, non mi ricordo più. Non ricordo. Chi è che l'amico che trasmette dalla Budi Budi, che ora non ricordo? Oh, io non sapevo nemmeno che c'era uno dalla Budi Budi. Franco, quello Gianfranco. Ah, Gianfranco, ecco. Ora ricordo, sì. Ma non si è sentito più. Come estetica è bello, almeno per finta. lirica di sopra. Praticamente ho messo la batteria sotto con una fascetta e l'elicottero torna indietro, capito? Ho messo la lirica. Come torna indietro? Ma tu l'hai messa a retromarcia allora? No, no, no, torna indietro l'elicottero, non... La batteria è fortissima, è fortissima, ma no, beh... Qua ti volevo dire come te l'ha detto, mi si è sbattuto il pantalone e mi ha spaccato l'elica di sopra. E ne abbiamo di eliche a voglia da sopra. Warning warning c'è scritto. E vabbè, c'è scritto warning, le buone mulassa che si adatta. Ah, tutte e due le ha rotte, diciamo, ne sono accorto, due le ha spaccato. E c'è lo sbilancia. Siccome la macchina non ci sta troppo larga, poi la metto senza carena e funziona lo stesso. Non è per niente. Senza carena glielo metto già. Perché poi dopo provo a attaccarla, sale, dritto dritto. Perché mettendola sotto non tiene, non torna indietro. Forse è troppo peso, boh. Ma comunque in ogni caso è la batteria. Attenzione. In ogni caso è la batteria, sì, ce l'ho mandato. No, non ce la faccio a modulare, non ti preoccupare. Avanti, Grove, buongiorno. Buonasera, ma tu non si ne faccio per modulare, perché è stato modulato. Warning vuol dire attenzione, attenzione, non metterci le dita. Vabbè, non so, se vuoi c'ho il traduttore. Però niente, mi si è tornato indietro, mi si è sbattuto il pantalone, ma ha spaccato, ma una un pezzetto piccolino e l'altro un pezzo grande. Ma sono fatti di blasti, vabbè, questi grossi, no, va. Vabbè, comunque. Il pezzo va bene già, quello piccolino, quello che tiene il bilanciamento delle eliche. La batteria è forte, poi mi sono troppo l'alimentatore, già lo sai. Mi carica la batteria, ma non sta da troppo. Vabbè. Comunque, quella lì la batteria dura un po'. E anche questo che c'è adesso, mi adesso l'ho messo in carica. Dopo 5 minuti è già carico e vola. Già hai visto quanto vola? Vabbè, non è quello lì, quello tuo, perché c'ha un po' di luci. Ma è forte, bello, bello. Le luci che illuminano davanti, hai visto quanto abbaglia? No, allucinante, un bel elicottero. Peccato che ti manca il... come si chiama? Il... perché non l'ho messo là, solo un attimino. Ti manca il motorino di dietro. Ebbene tu. Allora, che ti dice? Su quel singhiozzi. Va bene, e chi è che c'è in ruota? Scusatemi, non ho salutato, stavo sentendo il discorso appena acceso. Avanti, già. No, l'ho chiamato io, adesso Luca, basta, non c'è nessun altro. Sai che cosa ho fatto? Ho comprato l'elicottero nuovo, l'ho provato a casa, stavo giocando, a casa era un bel bello, stavo a farmi un'allaglia, mi stavo divertendo a farlo ballare avanti e indietro, lo stavo tenendo un bel in alto, no, poi si è attaccato al soffitto perché volava un bel bello. E ho fatto un atterraggio nuovo, l'ho toccata per la terra con la... facendolo girare con la... con l'elica di dietro, spaccato il motore, stracciato i fili, va a fannato, che appena ho imparato. Allora, ma come con le quattro eliche autobilancianti? Capo. Ma non lo devi mai far toccare alle soffitte, innanzitutto, perché c'è il fatto che c'è un bilanciere, c'è quei due bilanci che servono proprio per tenerlo bilanciato. Se tocca nel soffitto, si sbilancia ed è possibile che cada. Dopodiché, che grande sei? Qual è il modello grande o il modello piccolo? Quello grande. No, ma noi glielo facciamo toccare sul fitto, quasi a toccare sul fitto arrivava, nel senso che quasi toccava, ma non toccava. Ho capito, però l'overing riuscivi a farglielo fare. Avrebbe già rotto. L'overing è la manovra che più volte si è riuscita a fare, nel senso che per lasciarlo a mezz'aria senza che vada né avanti e indietro, né in alto né in basso, cioè fermo. Sì, quello lì l'ho fatto. Ed è un bel bello perché abbiamo spento le luci, era tutto al buio, con le luci dell'elicottero c'era troppo forte. Quella manovra si chiama overing, quindi significa star fermo a mezz'aria, e quella lì è, si vede se sei bravo a guidare o meno, capito? Warning vuol dire avvertimento, no attenzione. Warning vuol dire attenzione, non, poi può essere detto come avvertimento, ma warning, prova a scriverlo bene, si dovrebbe dare anche, se fai su Google il traduttore, si dovrebbe dare anche altre cose. Facendo warning vuol dire avvertimento, cioè ti sta avvertendo che praticamente ti fai male con queste lì, che comunque sia, se non vuoi assaggiare ci metti le mani. No, infatti non te la si trova, è avvertimento, attenzione, va bene lo stesso comunque. Il problema è che no, è importante non cambiarlo per una marca, capito? Perché vai a cercare, se no non lo trovi. Guarda su eBay che lo dovresti trovare. Beh, se ne c'è ragione qualcuna, poi non ci sono problemi. Intanto vediamo un po' cosa fare. Certo, ci ritrovo. Se riesco faccio volare con questa batteria bene. E se no, ma infatti, ecco perché, no. Non va bene sotto già. Sembra così, ma quel peso lì lo disturba, cioè lo fa andare male al peso, ecco, anche se pesa adesso 10 grammi, 20 grammi, quello che è lo fa andare tutto in farsi benedire. Poi c'è una carena, anche se non entra, e glielo lascio davanti. Stavo pensando, ma non ci sta. No, vabbè, là, domani vediamo. Stavo dicendo però, guarda che se ne cambi solamente due, perché questi elicotteri si controbilanciano, perché hanno le pale basse e le pale alte. Se le pale alte non sono uguali o viceversa alle pale alte o pale basse, succede un casino, eh. Che tanto ormai, c'è un casino. Non so, però non decolla neanche, capito? Perché quello lì serve per... Se non sono così... perfettamente, cioè non decolla neanche di schianto. Luca, ne avrò una trentina di eliche, non ti preoccupare, ne ho piccole, grandi, medie, di tutti i tipi. Va bene, l'importante è che siano uguali, quelle sotto e quelle sotto. Ne sono imbarazzate, uno e due. Maroglio, perché poi hanno, come vedi, sono... molti le numerano, come stai dicendo tu, proprio, ma le metti tu i numeri o ci sono già? No, ci sono già. K, raga, sì, no, quello che mi dispiace è che ho toccato il mobile e mi si è spaccato, cazzo. Mi ha stracciato i fili, mi ha stracciato dall'interno, e quindi io il motorino ce l'avevo e ci andava bene anche, praticamente dice la prima una lucetta che si accendeva dietro, che faceva due colori, rosso e verde. E poi c'era il motorino. Io togliendomi questa lucetta ho fatto sì che ci fosse l'inserimento per il motore che avevo. Però io non riesco a arrivare ai fili. Dopodiché di lucette io ne ho sempre lasciato due, perché quell'albero di Natale che fa, sì, è bello da vedere, però ti scarica la batteria. No, questa batteria tre volte l'ho già usata e ve la sento, peccato, questa batteria andiva un bel. L'hai cambiata? Ho cambiato l'elicottero, ho comprato nuovo. E a un massimo te l'hai pagato? Tanta, sì. Sempre di quelli grandi, affusolati, di la mangusta. Eia, sì, sempre di quelli lì. Vabbè, comunque me lo faccio regalare al compleanno, le compro quello dei carabinieri, quello lì mi piace un bel. Caffè Roger, aiutaci, andiamo in un posto giù io dove che il terreno sta le abbette e possiamo farli volare tranquillamente. Andiamo in tre, dai. Guarda, poi c'è soltanto di così, basta andare anche dove vanno gli sposi a fare le fotografie, dove siamo andati con Luca, cosa, ma se va. Caffè lì intendevo, infatti. Però bisogna che siano radiocomandati e non telecomandati. Radiocomandati, se vanno i 27 sono radiocomandati. Sì, no, perché sono quelli piccolini che vanno a letto, ma quelli lì basta il saluto che non prende bene il comando e non la sappi più. Se si scrivi, dica Luca quanto vuole in alto, si ha provato un'altra di lascio. No, l'unica cosa che bisogna controllare è che non abbiano la stessa frequenza e che appunto siano radiocomandati. Una volta che sono radiocomandati, puoi lanciare e poi tirarli su quanto vuoi e non c'è problema. No, con un telecomando ne comandi due. Non sai il cretino che fai. Un attimo, andavamo in campo di volo, incontrato Jonathan Giovanni Alghero alla fine della pista del Giacollo di Versilia. Lì c'è una rotonda dove li fanno sempre, dove andavamo lì a farli decollare prima che facessero quel campo dove si è andato a vedere la manifestazione. E morale, lì c'è una specie di cosa, di bacchetta, dove ognuno mette la sua frequenza, onde evitare che magari ci sia un altro che ha la sua stessa frequenza, e se c'è un altro che ha la sua stessa frequenza devi cambiare il coso, come si chiama? Non relay, ma il quarto. Come cambiare il quarto? Devi aprire il telecomando. Sì, perché quelli professionali, quelli con i nostri gatti, come si può dire, hanno il quarto nella ricevente e nella trasmittente, tu cambi i due e c'è un'altra frequenza. Io so come funziona, i quarti sono tipo quelli del baracchino, sono quelli quadrati con gli spinotti. Uguali, sta così. Ho capito, cioè, c'è una trasmissione, come al baracchino. Ma Roger, soltanto che lì c'hai la ricevente che è su quella che c'ha nell'aereo, che ti comanda i due flap e il piano di cola e l'acceleratore. Giù invece c'hai il coso dove li inserisci, questo come hai detto tu, il quarto, cioè il portaquarti. Addirittura ce ne hanno fatto uno, cioè c'è un modello dove proprio c'è un selettore, però è quello che tu sei, per cui simula i quarti e ne puoi avere 5-6 frequenze, capito? Che digiti tu, magari le frequenze? Ma c'è una specie di rotellina, la devi girare, girarci così frequenze, cioè è improbabile che ci siano 6 per campo, capito? Una la becchi libera. Ma tu a motore, vai a altro? Motore, ce l'avevo a motore. Ce l'avevo a motore, ma un motore quando scende a motore si fa, cioè, non ne raccoglie di aereo, Infatti per iniziare secondo me conviene dei tempi. L'aereo è più facile da guidare dell'elicottero. Assolutamente sì, hai ragione. L'elicottero è una delle cose più difficili, non quelli questi qua che sono bilanciati a due elica, quattro pali, diciamo. Se tu provi quelle a due eliche normali come quelle reali, non è così semplice, anzi. E io l'ho visto anche a un'elica. Praticamente con il vapore, dice che è molto più semplice, che rimane più sospeso in aria e tutto quanto quando c'ha quel rotore. Il problema del rotore è quello che quegli elicotteri che stanno usando noi, sono elicotteri che a seconda della velocità delle pale salgono e scendono. L'elicottero normale, al pari di questi qua che hanno una sola pala, o meglio due pale normali, non è la velocità delle pale, ma l'inclinazione delle pale che lo fa alzare e scendere, quindi la velocità della pala è sempre la stessa, soltanto che inclinando o diminuendo l'inclinazione della pala sale o scende. Ah, poi vabbè, diverso quello, però bene o male è più o meno la stessa cosa. Praticamente l'elica di dietro, per che cosa serve? Per girare? Per far girare, è normale. Per farlo partire con il culo alzato. Come ti ho detto, sale e scende in base all'inclinazione delle pali principali. Quindi la velocità è la stessa di rotazione del motore. Dopodiché, per girare la cabina da una parte a destra, devi diminuire o aumentare la velocità in modo tale che la cabina è quasi in autorotazione, però l'elicottero vero e proprio c'è anche un rotore laterale che è quello che ti fa girare. Il rotore che invece ti serve per farlo girare in modo tale che tu, dando potenza con le pali, vai avanti. Questo è quello che fa quello vero. E poi dove è finito il tuo elicottero? Ma Antonio, aspetta, Antonio, allora Antonio e Gianni, non riprendete subito, allora, tu parla e lascia, scaccia il microfono, c'è cioè il primo il mic, volevo dire una cosa con questo apparecchio, perché c'è qualcosa che non va, ma tu scacci il microfono e muri, vediamo un po', vai. Ecco, già provato. È lentissimo, prova a tuo c'è lo smutere, sì, non è come se abbia la ADC fuori ma è dentro, boh, adesso non lo smutere piano no, negativo, aspetta un attimino, io perché c'è il bip, forse Luca il bip fa rallentare quando muore a prova si fa rallentare un po'. Lo invita a tornare indietro molto lentamente, come se fosse, come se entrasse in autoprotezione a livello di, come se fosse già attenuando. Basta a secondo scende bene, a secondo non ci scende male, boh. Lo fa anche a me, lo fa anche a me, non si preoccupare. Adesso ci sono bene, vedi. Se lo fa già anche non scende bene, perché è una questione importante, prova già. Infatti, ma già mi do come lo rallenta proprio. Brava. Levando il mio, ma va così a vedere se scende veloce. Non è lento, è lento, c'è una cosa che non va, boh. Non è vero, non è che devo fare cose che non va, fa così anche il mio, prova, già, prova a diminuire della potenza e a dargli, se puoi, e a dargli importante e poi mollare. Come si ha la GC disinserita tu, dai? E come si ha la GC disinserito? Cioè, la GC serve per facendo lo smite piano piano, ma siccome è inserito, boh, non sta funzionando, aspetta. Che cazzo adesso? E dopo domani dovrebbe, o domani o dopo deve arrivare l'altro. Vabbè, meglio gusti. K. Controllo, se non puoi parlare male di me. Funziona meglio tu. Lo spento, lo riaccendo funziona meglio. Già. Da posto, a posto, vai già. Adesso scende veloce, da posto. E quello lo fa prima che si bruciano i finali, Vedi, usciamo questo qua un gomodo. È arrivato Ace of Cats. C'è qualcuno sotto? E qualche donna sarà. Hai capito, domani arriva, è la stessa, speriamo che arrivi. Ehi, così lo controlliamo. Ciao, una minuto, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, era ora, ciao. Allora entro io, dai. Ciao, Fabrizio. Beh, dai, ho tutto a posto, sì, mi sto guardando un po' di TV, un po' qui, un po' là. Fai bene, fai bene. Cavagava. Io mi sono sdraiato adesso 5 minuti. Perché sono stanco molto. Oggi di a Fiume Santo, invece tu gli ho telefonato e mi ha detto che già vengono a prendersi il resto della roba. Lasciali venire che ultimamente non ci piacciono, adesso gli faccio un'altra email, cacchio, e li faccio ricontestare, ogni tanto con la messa la faccio, gli faccio tirare le orecchie, prima o poi mi si graffiano la macchina. E io sì, ogni tanto quando c'è qualcosa che non va, faccio subito un'email, scrivo al collega per conoscenza della direzione e li faccio riprendere, perché ogni tanto sgarrano. Quella è una messa privata o dipende sempre da Fiume Santo? La messa ci hanno appalto loro, no? Ah, cavolo. E fanno anche, diciamo, i militari, questa cosa qua. Invece gli hanno dato l'autorizzazione, ovviamente salvo uno sconto, dal contratto è stato modificato e servono anche i militari adesso. Ho capito. Poi andavano anche a portare i panarini a quelli che pulivano le spiagge quando era successo quel casino. Credo di sì, facevano anche quello, quando abbiamo sporcato quello lì, comunque abbiamo pulito tutto bene, che ho una varia di colleghi e poi tutta gente che tratto bene, per la parte con tutti, ma tutta gente assunta con me, stiamo tutti seguendo questi poveracci lì, tutti quanti a pulire. Lo so, ma queste cose qua, hai visto quella schiuma che passa l'Argentiera adesso? Cazzo è la schiuma? Quella sicuramente è qualche nave che ha lavato, non c'è altro sistema, e lì hanno scaricato, per l'analizzare, lì passano qualche nave, qualche autocisterna di qualche prodotto chimico che ha scaricato, capito? Ma sembra neve, hai visto quanto c'è? Ecco perché non si pesca più la risentiera, ne ha portato Palmas che si pescava così bene. Sono andato e non toccava niente, telefonato prima che scesse questo affare qua, ma una toccata che l'ha toccata, Fabio, ma con gli americani niente, nulla. No, vogliamo vedere cosa hanno buttato, sai che cos'è? Il problema è di quei putti lì è tutto a perdere, però se passa qualcuno e ci butta roba, puliscono le stive, e cosa ci vuoi fare? Infatti quella è tutta roba che qualche, ci sia qualche mareggiata ha portato di qualche lì prodotti chimici, bisogna capire che cose ce ne sono, i prodotti che fanno schiuma, a voglia se ce ne sono. Sì, no, è che non ho capito. Se non parlo male, quelli non arrivano troppo, quelli sono tonnellati di roba e ha fatto tutta la gente la bianca, non ho visto come la fate, sembra la rete. E cosa ci vuoi fare? Tu considera che una petroliera, ci sono 100.000, 500.000 tonnellate, dipende da che petroliera è, che è petroliera, però comunque diciamo cisterne che trasportano prodotti chimici. E le cisterne una volta che arrivi in porto le devi pulire, pagare per pulire, bonificare eccetera eccetera. Tu immaginati quando sei in alto mare, nessuno ti controlla, pulisci le cisterne, non sei soldi che risparmi, tanto sono tutti senegalesi, cingalesi, tutta gente strana, noi saliamo sulle navi per fare i controlli e tutta gente strana, è tutta gente per carità. Perché lo so, ci vado anch'io nelle navi, salgo anche io sulle petroliere, una volta mi hanno fatto salire su questa petroliera, ho portato viveri, carne a pezzi grandi, frutta, verdura, tutta questa roba qua, su una nave turca, una petroliera turca. L'hanno fatto salire tutta con i tappeti rossi era. Cioè molto bella come era fatta all'interno, sembrava di essere non in una nave, ma sembrava di essere in una casa di quelle lussuose. Là. Mi ha fatto accomodare e mi hanno offerto il tè. E poi mi ha regalato una stecca di sigarette. Io già lo so, però perché non ti fidi che ogni tanto se sono pucaccioni, ce cioè, ne sono alcuni sporchi, ti offrono, ah, devo bere con me, lascia stare, tutto a posto, grazie. Allora io ho i colleghi che fanno quello, no? Quindi sono sempre su queste navi che quando fanno i controlli con documenti, quando scappano gli scarichi del carbone, no? Quindi controllano, fanno, hanno le responsabilità di tutto lì e quindi anche infatti me lo caso femminico, io meno male, sono un altro rapporto, fa prima io ci vieni che tu vai, cacchio, infatti uno di questi giorni bisogna che quando sono scarico diciamo dal lavoro, che noi chiamiamo giornalieri, dai, che sono fuori un attimino. Sono lì quasi quasi mi avvicino a, se c'è qualche nave provo a salire a vedere perché cazzo, ce n'è di tutti i colori se ne vede. No, ma questa mi dava l'impressione del pulito proprio perché era tutta quanta tappeti rossi fatta tutta così in terra tutta tappeti questi mi ha fatto entrare in questa diciamo stanza chiamiamola così dove c'era la scrivania, tutto quanto, sembrava un ufficio proprio di quelli di alto, proprio l'ha fatto bene, là. E poi queste sigarette sembravano Goulas, erano corte e grosse, cazzo, erano i vostri, erano regalato tutto quanto, erano regalato amico che ha la collezione di queste sigarette estere e cose, erano regalati a lui. Sì, ma questi, però lo sai cos'è anche, perché poi molte volte a noi chiedono i favori, se gli compri quello, gli compri quell'altro, anche perché loro non possono assolutamente scendere dalle navi, Lo so, c'è l'ANAR che fa questi lavori. Lo so, infatti molte volte qualcuno di noi qualche favore glielo fa, però l'importante è che non scendano dalle navi, perché assolutamente, alle volte giusto sul pontile. Perché non possono scendere? È perché sono extracomunitari, capito? Sulla nave è territorio loro, ma dalla nave non possono scendere, capito? Ci vuole il passaporto, c'è tutta una procedura, non è così semplice. Ecco, se come come turisti non possono scendere, come turisti non vengono. Ma gli devono firmare un foglio, come che devono fare la richiesta, arrivare come turisti, cioè devono, quando qui arriva qualcuno di fuori, arriva alla dogana, no? Diciamo, in aeroporto, dove comunque devono fare la dichiarazione, presentare il passaporto, deve essere timbrato, sceso, autorizzato e tutti i controlli, no? Che fanno? Così dovrebbero fare questi, non è, capito? Quindi non hanno nessuna autorizzazione a scendere dalle navi. E dice, noi quelli che sono imbarcati nel velo di città scendono, quando arriva si fanno le compere, eccetera, eccetera. Invece no. No, dipende, se sono di comunità europea non hanno problemi. Poi ha un costo scendere da quelle navi, eccetera. Dovrebbero avere, potrebbero alcuni, ma dovrebbero avere documenti, passaporti, molti non hanno nemmeno passaporto sicuramente, capito? Ma non è così semplice scendere, ci vuole capitaneria perché non passi tramite una frontiera, e non è così semplice, capito? Ehi, Luca! Vecchio? Avanti Giulio con la buonasera. Ciao Gianni, ciao Fabrizio. Oh già, per quella storia io sono pronto. Già da due giorni, dunque non ti ho avvisato prima, anzi stasera ti ho chiamato il telefonino ma non hai risposto. Stavo dicendo, già da due giorni perché ho pensato di far disperdere l'esalazione della vernice, dunque sono pronto insomma, ecco. E vabbè, quando vuoi, lo porti. Anche domani, se vuoi. Domani cos'è? Giovedì? Portalo domani giù, non c'è problema. Beh, ascolta, ma vengo quando ci sei tu, così magari mi dai una mano per portarlo su. Vabbè, già entra nell'ascensore, non è un problema. E vabbè, io ci sono fino alle 5 a casa. E vabbè, io vedo verso le 4, va bene. Ti aspetta che le carigliane, se non lo so. Riprendi, Fabri. Riprendo io, dai. Riprendo io, ciao Gian Maria, ben sentito, per un po' che non ti sentivo, e passo un attimino in quel rete, se arrivi ti riprendo dopo, dai. Che mi sto guardando una cosa delle Iene, cazzo assurdo, dai. Ok Fabri, no, non sono Gian Maria, sono Giulio. Va bene, passa pure in quel rete, vai. Arrivi, ti riprendo con Rix un attimino. Ah, ciao Giulio, scusami dell'errore. Figurati, cose abbastanza normali, non è un problema. Non ci vediamo in faccia, dunque faccio le sbagliare. Va bene, aspetto Gianni, perché mi deve dare una risposta. Ehi, laggiù, ok. D'accordo, allora vengo alle 4 domani, va bene già. Ehi, ok, d'accordo. Ma niente, niente ancora, no? No, ha telefonato e ancora sono arrivato. Vabbè, metteremo più in là, non è un problema, d'accordo. D'accordo già. È in quel veicchio se Fabrizio, non so se rientra subito, non lo so. Vedo un po', chiamalo. Fabri, di Luca, che Luca? Tutti scomparsi, insomma. Ciao, ciao. Come è venuto, bello? Gian Guido, vorrei vedere, secondo te com'è? Vabbè, non dovrebbe essere bello, io lo voglio bello. Appunto, conoscendoti poi. Signoro, bello, so. Poi ce n'è... L'altro giorno sono andato a mettere la capota della macchina, il cielo, che me l'ha fatto proprio, ma è vero, è un artista, non te ne accorgi che è fatto a nuovo, l'ha fatto tutto a nuovo, sembra fatto dalla fabbrica. E lo so che Merella lavora bene, soprattutto sui mezzi, è proprio bravo, sì, anche per tendoni, il camion, tutte queste cose, è un vero professionista del mestiere. E io gli dicevo, guardi questo, ho detto, guardi, io ho trovato un pezzo quando l'ha smontato e suppongo che sia delle cinture. No, questo pezzo qui dice, l'ha smontato un mese di orbelastra e non ne ho mai visto di questi pezzi, deve essere, magari ci sia bambini, magari il bambino che l'ha buttato, il bambino c'era, ma mi ha detto che non è roba sua. Beh, chi ha fatto un po' quanto? Il Tettuccio? Detto, poi attivare le cinture, una andava bene, l'altra non trovava niente, detto, allora ci siamo. Smonti l'altra, mica la soddisfazione. No, ma non è quello, smonti l'altra, ve lo faccio vedere che non è quello. Smonta l'altra e ce la colpete. Lo so. No, Manella è, diciamo che uno dei tuoi bravi assassini, se non addirittura il tuo bravo in assoluto. Sì, sì, sì. Ma dopo è sempre lì in via Roma, mi sembra che sia, no? Cioè in via Umberto, in via Roma. Traversa via Torres. Traversa via Prolungamento, via Torres. Sì, dai, sì, sì, sì, infatti, subito dopo via Torres, sì, è vero. Sì, già me lo ricordavo. Praticamente di fronte a via Fredoliani, in pratica, più o meno, eh? Sì, sì, sì, per andare all'Indianapolis, lì, di fronte, di là. E che adesso hanno chiuso quella strada, perché praticamente mi stava dicendo che dovevano fare le foglie nuove, dovevano collegarsi alle altre che c'erano, al bocchettone grande. Cosa è successo? Che quando hanno fatto il fosso si sono accorti che le fogne invece che risultare in pendenza, cioè più in basso, risultavano più in alto di quelle che avevano fatto, quindi hanno dovuto fare uno scavo ancora più lungo per trovare la pendenza, è un casino, e hanno lasciato tutta la strada bloccata adesso, il che dice io sto facendo un sacco di lavoro. Molte macchine non le posso fare perché cosa succede? Siccome è chiusa la strada da una parte, da via Umberto, quindi per entrare devi fare un pochettino in controsenso, non sono tutti che sono propensi a farlo, anche perché ci sono sempre i vigili puntati, se ti vengono facendo il controsenso ti mettono la multa. Se l'altro giorno a me per smontare le cose mi ha fatto vedere vicino a marciapiede e il vigile già stava per fare la multa, dice guarda che sto facendo la macchina e si sbrighi sulla merella perché sennò qua dice che tu vi cerchi in gamba e cerchi invece che sono bastardo, non ne frega nulla. Uno mi ha risposto che se stavo lavorando io stavo lavorando anche lui. Ma no, non è possibile. Ora questi sono sempre i soliti personaggi che non sono capaci a fare lavori, fanno la foglia la fanno il rovescio, la pendenza il rovescio, ma non è possibile, ragazzi. Ma quando mai dico io questo? Il tecnico del comune, allora nemmeno lui, o non controlla oppure non ne capisce nemmeno lui, perché se no non si può fare un errore del genere. Buonasera, bene, città di Ferre. Ciao Sandro, dove sei sentito? Ciao Sandro, salutoni. Capito già, non è possibile. Dico io, il comune ha dei tecnici, no? Quando fanno dei lavori, qual è il compito del tecnico? È quello di controllare i lavori che vengono eseguiti. Evidentemente no, o non seguono i lavori oppure non ne capiscono nemmeno loro. Cosa vuoi che ti dica, Giulio? Io non ho detto che in questi lavori tu sono stati anche abbandonati perché li hanno cominciati, hanno fatto tutti gli scavi, hanno coperto gli scavi, tutto quanto hanno messo la via e poi hanno lasciato i tubini più alti della cosa perché doveva fare l'asfalto. Tutta la ghiaia davanti, quando fa le macchine dice che gli piacciono tutte le macchine di polvere, di cose, non si può lavorare, dice così, è un casino. Sì, in effetti è così. Ma voi dai, già ti lascio con Alessandro adesso. Io ascolto e basta, non posso parlare più di tanto. Ci sentiamo, ciao Gianni, allora ci vediamo domani alle 4. Ok, ciao Sandro, salutoni, ben ascoltato, io rimango con Enrico, si riprendi. Ok, ciao Giulio, ben ascoltato, buon quality. Quale ti ascolto, diciamo. Ciao Gianni, ok. Va bene, vabbè, no. Non commento su questi discorsi, dai, no, lasciamo perdere per carità, perché se entriamo nel cerchio di questi discorsi, guai. Va bene, no, un particolare, siccome ho sentito questione di tappezzeria, mi sembra, Gianni, corrigimi. No, ho fatto fare il giro della mano. Allora, ti spiego, siccome noi abbiamo, diciamo almeno giù dalla parte di mia madre, giù in campagna, un vecchio divano, ma vecchissimo divano, forse Giulio si ricorderà, quello che ha dei pomelli tipo in ottone, tutto fatto in ottone, poi disegnato, avevamo intenzione diciamo di rifare diciamo tutto il rivestimento, abito, adesso non so, infatti l'altro giorno ero anche alla ricerca per vedere un po' di chi se ne poteva occupare di queste questioni qua. Marella è bravissimo, Marella è molto bravo. A me per la macchina, per farmi il cielo della macchina, mi ha preso 220 euro. Però ti dico una cosa, che se tu lo guardi non ti accorgi se è l'originale o se l'ha fatto lui. Ho capito. Vabbè, evidentemente diciamo che è un settore diciamo suo, un settore qualificato su queste cose qua. Ma sai mica se fa anche quel genere che interessa a me? Ma io so che fa serie di macchine, di queste cose qui, ma poi so che faccia anche quelle cose lì. Penso che le faccia, i divani, queste cose qua che le faccia lo stesso. Ho capito. Va bene, vediamo un attimino, dai. Allora un po'. Va bene, ok, dai, che dirvi, niente, meno qui che sbrigavo qualcosina, intanto un attimino a far riscaldare la radio, dai. Va bene, e come il discorso già, hai visto che ancora la via pedonale del centro di Colotrese è ancora tutto bloccato? Io non ho capito se la devo ripristinare al traffico quella lì o se rimarrà sempre pedonale. Non so cosa dirti, guarda, non ci ho capito un cavolo. Quanto si dice che quella è una via pedonale, quindi non è più accessibile diciamo al traffico, ma bensì soltanto pedonale, solo esclusivamente pedonale, diventa diciamo tipo una passeggiata o qualcosa del genere, almeno poi bisogna vedere. Ma è un casino, se uno deve scaricare nei negozi, dove cacchio fa? Vabbè, comunque hanno fatto tutto sotto marciapiede, lo devono lasciare l'originale com'era nata, la cosa la devono lasciare, non farla diversa da come era in origine. Lì chi ha progettato, diciamo, chi ha fatto il progetto, adesso non so se l'ingegnere o l'architetto, diciamo, chi ha progettato quel sistema lì, ma il bello diciamo che hanno usato, non so se ti sarà capitato lì nel comune, hanno usato quella specie, adesso non so se è una specie di granito, una specie di marmo, dove le macchie se l'assorbe. Quindi poi diventa un mosaico, diventa di macchie, di sporco e così via. Io son propenso, Alessà, la roba antica deve rimanere così. E inutile pensare se l'avevano fatto sopra il cioccolame antico al corso, roba del genere. Avevano fatto il coso, avevano messo, come si chiama, l'asfalto. Poi alla fine gliel'hanno fatto togliere perché Sassari volevano che rimanesse originale com'è nata la strada. È giusto che sia, anche io almeno lo penso di quel senso lì, penso che sia, dovrebbe essere così, diciamo dalla nascita, all'origine, diciamo se ci va diciamo del cioccolame, che poi quel cioccolame è un cioccolame particolare, addirittura mi sembra che sia di quelle pietre diciamo di fiume, neanche un cioccolame particolare, perché non lasciarlo diciamo alle vecchie origini, capito? Anche diciamo per questione diciamo di estetica diciamo che dalla via, anche per i suoi ricordi, insomma, e tante cose. appagato. Ma cosa vuoi fare? Che in tutta base che tu la vita se dicevamo qui. No, io sono d'accordo sul fatto che rimanga la cosa originale, sì, che tu gli dai magari una restaurata, ecco, alla cosa che c'è già per tenerla in vita, ma cambiarla completamente non va bene, secondo me, poi ognuno, addirittura senza, hai visto quei massi di pietra che ci avete anche a Porvetto, quelli che hanno messo adesso ultimamente, quelli li hanno tutti numerati, li hanno messi 1, 2, 3, come andavano messi, come erano in origine li hanno rimessi. Ah, sì. Ma, scusa un attimino Gianni, noi torniamo, noi guardiamoci, noi se ci guardiamo nelle vecchie strutture, adesso come le chiese, come per dire adesso tipo il ponte romano che ancora esiste qui a Porto Torres, vecchie strutture dove diciamo i nostri vecchi diciamo lavoravano solo esclusivamente diciamo la pietra, lavoravano il tuffo, lavoravano il granito, cioè e lavoravano certo non con i mezzi, con le attrezzature che ci sono oggi. Sono strutture, sono dei capolavori che tu ti riguardi, se tu adesso per dire, adesso ho fatto un esempio, San Gavino, la chiesa di San Gavino, adesso sentato si è entrato dentro, no? Tu a vederti la cupola di queste arcate, tutto in tuffo, tutto in pietra lavorata, cioè a quei tempi non era semplice. Allora perché non si fanno più queste strutture? Perché adesso l'uomo ha trovato la pappa pronta, ha i macchinari che le fanno queste cose e non ci mette più niente di suo. Di suo ci mette solo la malleabilità, solo per manovrare gli affitti e basta. Cosa vuoi fare? Oramai tutto, non si conta, per dire, non si conta più a mente, mio padre faceva certi conti a mente che ti rimaneva a bocca aperta, tutto a mente faceva, calcolatrice non li usava. Vabbè, ma allora degli altri tempi. Altre questioni, altre abitudini, era totalmente diverso. Adesso a scuola se non c'è la calcolatrice la matematica non va avanti, ma allora mi domando e dico che matematica è quella calcolatrice? Scusa, se tu devi capire che 5 più 5 fa 10 e non riesci a farti entrare che fa 10 e ti devi portare presso la calcolatrice, cioè, ma mi domando e dico che matematica è questa qua? È una matematica che anche i ragionieri mi meravigliano tante volte facendo i conti. Io ho contato con ragionieri che se non usano la calcolatrice non sanno fare 2 più 2. Ti dice la tecnologia, vabbè, anche la tecnologia è buona che ci sia, però insomma uno che va a prendersi una laurea, uno che va a prendersi un diploma, che deve raggiungere il diploma a calcolatrice, non sa risolvere qualcosa senza la calcolatrice, forse la penserò in una maniera diversa, ma così non si spremono più le meningi adesso. Comunque, ma sai, come diceva Coloraggia, lasciamoli andare avanti intanto. Noi siamo dei piccoli muri, non ci interessa farci la nostra piccola giornatina, temporale, e andare avanti, solo quello. Oh, pensavo, stamattina ho visto la tua macchina, la gesurata, e invece la volta affidata a voi, sicuramente fai le mie scuse, ma io ho riconosciuto la macchina, pensavo fosse in tutto. Ma dalle retrauto? No, li ho visti, stavano passando, per andare verso via delle Vigne, stavano uscendo da... che via è quella di San Napoli, non mi viene. Vabbè, comunque stavamo uscendo per via delle Vigne, da dove abiti tu, là, stavamo verso via delle Vigne. Ah, sì, sì, lo sta male, quando, sì, mia moglie è con mia figlia. Sì, sì, sì, c'è un appunto, e l'ho osservata ieri un'avventura con l'Opel. Mi ha lasciato a piedi, anzi mi sono fin troppo preoccupato. È successo che sono salito lì da mia cognata a due signori. Arrivo prima di sosso, vedo la spia della batteria accesa, metto aia. Poi nel frattempo vedevo le luci offuscate, non proprio le luci nelle vive. Infatti mi sono fermato un attimino, aspetto la macchina, riacceso, partito, vai da verso là. Entro proprio all'ingresso di sorso, la spia accesa, luci basse, quadro che cominciava a partire, sembrava un albero di Natale. Ho detto addio, ci siamo. Faccia il rapporto. Esatto. Infatti al primo impatto mi sono preoccupato, ecco qua, non è questione di batteria, poi questa è una storia, infatti poi l'ho lasciata lì, stamane sono salito, infatti sono andato dal retrauto, ho detto guarda così, c'è qua una batteria, ho messo sulla batteria, l'ho portata giù, infatti ha cambiato un nonno tutto l'alternatore, soltanto questa piastra, dice che c'è una piastra con dei, adesso non lo so come la chiamano loro. Ti ha portato a prodotto? Sì, lì da coso, quello di fronte all'altra adesso. Vabbè, io quando ho qualche problema di elettrauto, che cosa lo porto sempre da lui, fino adesso, guarda. Ah, ho capito, pensavo la ex chessa. Capito chi? Io pensavo che fosse l'altro, quello che c'è vicino all'opera. No, di fronte a lei, se per ingresso di quella cosa che c'è la farmacia, no, io mi sono servito sempre da lui. Diciamo, almeno mi sono trovato sempre bene, guarda, siamo da appunto che così via. Infatti ho detto tra di me, ho detto, se io te la porto all'opera, per carità, guarda, mi fa una beffa. Io non conviene più, io anche tagliando non gli sto più facendo la Opel, gli sto facendo con la meccanica normale, c'è tutto gli altri sotto gli attrezzi per la Opel. Ok, va bene, comunque purtroppo sono macchine ogni tanto anche loro, hanno le loro piccolezze, diciamo così, però dice che è già un periodo che ne sta capitando frequente di questi alternatori. Adesso che dopo quel numero di anni, ma la mia esperienza, a me mi si è staccato il cielo della macchina, che era una chiave nuova, così che la vedi dentro, trattata bene, ma questo cielo, sai cosa succede, si secca la... c'è una gomma piuma all'interno, si secca, si sbriciola, e poi piano piano scende la tela, ti tocca la testa, ti fa un pulito, sembra così, ti fa solletico quando cammini, dava fastidio, allucinante. Ma l'ho portata, ci ha portato la macchina e me l'ha tutta smontata, diciamo, dalla parte dura, l'ha tutta grattata, rimessa con la tela nuova, tutto quanto, e poi ripiazzata. Grosso lavoro, veramente bene me l'ha fatta, in gamba me l'è, c'è poco da fare. Scusa, non c'è il doppio pettuccio? Sì, c'è quello duro più, quello in gomma piuma, diciamo, c'è una gomma piuma sottile sottile e poi sembra mocchetti l'altro. Sì, ho capito, sì, logicamente adesso non lo so se sia gomma piuma o che sostanza sia, se non sbaglio quello mi sembra che sia una sostanza ignifuga, diciamo, che non prende fuoco, mi sembra che logicamente poi magari con l'arco degli anni o che cosa poi si deteriora, diciamo, naturalmente. Sì, ma è proprio dura sui 9 anni, che la fa molto alle opere e alle Mercedes. Sì, lui è, non diciamo che è un fattore diciamo naturale, diciamo, di quella sostanza lì. Comunque quella è una sostanza ignifuga, diciamo, e così via. E vabbè, già, logicamente le macchine sono come noi, con l'arco degli anni anche loro, insomma, i pizzi si usurano, quindi non è che possiamo pretendere che durino un'eternità. No, per il resto c'è 168.000 km, la macchina cammina come il primo giorno, non li busso di nulla questa macchina, mi ha sempre portato da tutte le parti, non mi ha mai dato problemi né niente. Sono dei motori che vanno benissimo, guarda, quando fai dei tagliandi regolari con buon olio, con i filtri giusti, la macchina la usi regolarmente, guarda, ti fanno una vita, va bene, diciamo che la nostra, diciamo, c'ha appena 60.000 km, cioè c'ha 4 anni di vita, quindi non è che sia, diciamo, così vecchia. Qui ha 9 anni e 9 anni si è sempre fatti stesso riportatore, si è fatto volte al giorno, più Cagliari, qualche volta Umbria, eccetera, eccetera, siamo andati anche fuori, siamo andati anche in continente, ma insomma, la maggior parte dei chilometri che fa è senso di provocare su 4 volte al giorno. Ho capito, sì. No, vanno bene, come macchine, guarda, vanno bene su strada, su lunghi tragitti, anche riposante, capito? Non è che te la fa sentire addosso la guida, diciamo, distante sulla guida. Vanno bene. Dopo Gianni, dai, ti lascio che qui, vada, è più contatto. Allora, lui si prende il vizio, dopo sei giorni che sto parlando, lui si prende il vizio, me ne viene qua, si mette seduto, mi prende, si mette il muso sul ginocchio e mi guarda. E come dire, beh, non ti sono trovato. Te lo fa capire. Quella cosa sul punto di gitti, l'animale, il buco di rapa. Chitti invece il mio gatto mi guarda, mi sembra che mi sa morti. Quando sto mangiando, fa miau, vuole qualcosa da gustare, e poi non è ingorre in modo. Si mangia due pezzi di roba e dopo il resto lo lascia, ne metti tre pezzi, due, si rimangia lo va. No, guarda, sono affettuosi, poi sono di compagnia. Poi lui c'ha la sua cesta, diciamo, nel terrazzino, non dà fastidio, niente, quando mangiamo lui delle volte sempre terrazzino, ti guarda, è come che non c'è, però guarda, è sempre di un affettuoso micidiale, guarda. Lo so, gli mancano soltanto la parola. Ma poi già, dai, ti lascio, ce la sentiamo tutte le prossime. Kappa, ciao, buona passeggiata allora. Andare, no, ci sentiamo le prossime, dai, ciao. Io. Ti ho chiamato poco fa, dove sei finito? Ah, è stata la mia camera, stava chattando. Non aspetto, mi accendo l'apparecchio, perché tutta la sera accendo. Non aspetto, per niente, però non sono rientrato. Maria. Vabbè. Peccato. Sono un po' così, con l'elicottero, fa un culo. fatto zuppo la roba. Sabba. Boh. Aspetta un attimo, già, scusa. Sabba. Mi ha fatto tutto zuppo. Qua. E così non ho capito. Boh. Yeah. per aprirti lo ti arrangerai, già si può aprire lo stesso. No, non gli piace nulla, se quando c'è la manopole cosa glielo piace a fare per non poterlo usare? Sì, che si può usare, cosa no? Si può usare lo stesso, ma voglio dire, cosa fai? Te lo tieni così? Domani te lo porto e te lo piazzi e ti prepari tutto, cosa vuoi amico, domani giovedì, magari sabato poi hai più tempo, fatti anche l'impianto, eccetera, eccetera, sicché se no ti aspetti alle maniglie e allora... Oh. No, hai già detto che dovrebbero arrivare a giovedì, che li sollecitava, che dovevano arrivare altre cose anche, e li mettevano in mezzo. Ho capito, vabbè. D'accordo, già. Ok, allora ci vediamo domani, dai. Però se abbiamo anche un po' prima delle 4, non lo so, boh. E se vieni prima, ti prendo prima, non c'è problema. Ok. No, se vuoi vengo anche alle 3, sempre quello, però nel senso che, cioè, se tu vuoi fare il trasferimento da quello che hai adesso al nuovo, non è chiaro che ci vuole un po' più di tempo, ma se tu vai via per le 5 devi essere giù e allora non ci manca poco tempo. Se vuoi vengo qua alle 3, non è un problema per me. Se vieni alle 3, perché poi a Marco devo andare a prendere a scuola. Capito? Alle 4 e mezzo devo andare a prendere la scuola. Vabbè, vieni alle 3 e mezzo, dai, vedi tu. Ok. Beh, perché se io trovo appunto di mattina a casa non c'è nessuno, degli altri a casa domani mattina è. Dipende, dipende dalle giornate. Capito? Dipende se deve andare per lavoro o no. E vabbè, la cosa, allora dalle 3, dai, io penso di arrivare lì verso 3 o 4, vabbè. E vabbè, là. Non c'è problema. Ok, ciao, ciao, ciao. Ciao, ci sentiamo. Non ci sì, sì. Non so, di attenzione, canale 10, se ascoltate il doppio numero.